Ovunque vendi, Amazon Shipping può gestire la consegna. Offriamo un servizio di spedizione affidabile per tutti i canali di vendita online, garantendo che i prodotti arrivino dal tuo magazzino ai tuoi clienti. Per i tuoi prodotti scegli il loro servizio di spedizione preferito. Amazon Shipping, il servizio di spedizione di fiducia dei tuoi clienti. Buonasera amici di Runtime Radio, io sono il vostro carissimo Leo Varghion, ormai mi avete imparato a conoscere, che non è italiano ma non importa. Sono le 21.03 e finalmente torno a fare questa trasmissione che non facevo da un po', e la trasmissione in questione è Morfeo, lo show per dormiglioni con cui restare svegli. Questa sera abbiamo un ospite veramente veramente speciale, perché è il mio caro amico Nicolas e lo avete già conosciuto, perché settimana scorsa è stato ospite di Runtime Tutta, dato che il suo pezzo Clean Amen, direttamente dall'album De Rerum Natura, è stato il brano della settimana scorsa di Runtime Radio, a dimostrazione veramente che Runtime accoglie ogni genere musicale, anche il più, se vogliamo, controverso, se vogliamo usare un termine forte, ma scopriremo in questa puntata che il black metal è molto di più rispetto a quello che si può pensare. Quindi vi invito caldamente a recuperare questo episodio anche in podcast, se non riuscirete a sentirlo in live questa sera, perché racconteremo cose molto belle, molto interessanti. Quindi vi invito calorosamente a non perdervelo assolutamente, perché Nicolas è un ottimo ospite con cui veramente si possono fare delle ottime chiacchiere, ma lo scoprirete da soli. Quindi che vi dico, signori, è tanto che non lo facevo, mi è mancato veramente tanto. Sigla e poi cominciamo. Ed eccoci qui, signori! Sì, allora, Simone già subito mi scrive, ma Leo sei in una grotta? Non proprio, caro Simone, semplicemente ho qui un microfono veramente molto vicino alla mia persona, un secondo microfono veramente vicino alla mia persona, perché il buon Nicolas, che è qui con me, Nicolas Gubinelli in arte Xenon, che presento ufficialmente, è proprio qui nella VAR Caverna, veramente la seconda unica persona che è veramente qui, che è arrivata qui alla VAR Caverna. Ciao Nicolas, buonasera, benvenuto e veramente grazie di essere qui. Ciao ciao a tutti, in primis al buon Leo che mi ha ospitato nella Bat Caverna, hai detto, giusto? Nella Varg Caverna. Alla Varg, non sia mai. Bat non poteva, perché chiaramente c'è un copyright, grosso quanto una casa, assolutamente, che ti sei meritato un applauso gigantesco da parte del nostro pubblico digitale. E vabbè, anche basta, perché ero tutti i coglioni. Comunque, caro Nicolas, allora, grazie tante per essertene partito da casa, per essere venuto qui alla VAR Caverna e partecipare così a Morfeo, questo show serale che conduciamo qui per tutti voi che siete qui all'ascolto, ma è anche per scoprire qualcosa di più sugli ospiti, sulle persone che ci vengono a trovare e per trovare degli spunti di riflessione interessanti. Noi abbiamo creato questo show, io ho creato questo show per rimanere svegli, quindi chi meglio, insomma, di un musicista per, se vogliamo, aiutarci in questo scopo. Ora, vado un attimo a finire la mia introduzione su di te. Tu sei arrivato qui a Runtime Radio tramite il brano della settimana, come ho detto nell'intro, Clean Amen, sì. Direttamente dall'album De Rerum Natura, e quest'oggi volevo anche parlare assieme a te di quest'album, ma non solo, comunque, perché ci saranno tante domande che ti vorrò fare chiaramente su questo e tanti altri argomenti. Quindi innanzitutto vorrei che ti presentassi al nostro pubblico e ci dicessi chi sei, cosa fai nella vita e soprattutto perché quest'album. Allora, un sacco di domande in realtà tutte insieme, ma proviamo a dargli un ordine. Il mio nome è Nicolas Gubinelli, come già detto dal buon Varghion in arte Xenon. E sono un musicista, seppur questo termine non penso mi renda giustizia, io stesso non lo adotti, ma attivo in più progetti, partendo da Primordial Woods, che avete modo tutti voi di conoscere su Runtime Radio, ma ho all'attivo altre band come Hagen, Fallet, Senon and the Corrigans. E sono tutte distinte, diciamo, in una qual certa maniera. Un po' per il genere, un po' per i contesti che riguardano ogni singolo gruppo. Nella vita mi occupo appunto di musica, sia a livello compositivo, ma anche di produzione e quello che riguarda la direzione artistica di piccoli e medi eventi, mettiamola così. E soprattutto sto cercando di rivalorizzare tramite questa serie di eventi e di musica autoprodotta quello che è il nostro contesto territoriale, quello del territorio marchigiano e di tutto il circondario della nostra bellissima zona appenninica, che meriterebbe più luce e che purtroppo tra appunto queste luci e ombre della nostra società talvolta non si tende a valorizzare, guardando a problemi e situazioni un po' diverse. Nel frattempo che tu ci hai fatto questa tua piccola presentazione, ho messo in sottofondo l'album di Rerum Natura che ci accompagnerà comunque in questa serata e che avrete modo appunto voi che non avete, magari non l'avete ascoltato o non l'avete ancora avuto modo di sentire anche nel brano della settimana, che non l'avete ancora conosciuto, potrete sentirlo assieme a noi questa sera. Ora, io vorrei innanzitutto chiederti. Vorrei partire proprio da qui, da quest'album che tu hai creato e su cui io so che hai buttato veramente tante tante ore, tante tante energie, studio, impegno, sangue, Di lacrime, tutto. di tutto. Innanzitutto, vabbè, vi saluto poi in chat, vedo Simone e Michela che ci salutano, ciao cari. E a tutti voi che ci state seguendo anche su Twitch, insomma, tutti quelli che si aggiungeranno e tutti quelli che ascolteranno in podcast, in video, ciao. Gli asset non si sentono, mi dicono, quindi mi dispiace. Vedremo di correggere. Forse si sentiranno poco poco, però dovrebbero sentirsi in teoria. Vabbè, vedremo. Intanto lo passiamo e ti chiedo questa cosa, Nicolas. The Rerum Natura è un album. È la prima domanda che mi è venuta in mente in realtà vedendo questa cosa. The Rerum Natura di sicuro ha come concetto un'opera. Un'opera come hai anche detto nell'audio di presentazione che hai presentato a Runtime Radio, insomma. È tratto da un'opera di Lucrezio, se non ricordo male. Io purtroppo sono un completo illetterato, quindi dovrete accontentarvi cioè della mia povera spiegazione, ma abbiamo qui l'autore del disco, quindi magari ci aiuterà anche a sviscerare meglio questa cosa. Però, essendo questo un concept album, la prima cosa che mi sono chiesto è perché un album black metal a questo punto? Perché io sono abituato ai concept album del progressive, soprattutto, che sono molto più esplicativi, molto più. Se vogliamo, diretti nel loro messaggio, raccontano delle storie che. Allora, faccio qualche nome: i Dream Theater con Metropolis parte 2, tutta la discografia degli Iron, per esempio. Assolutamente. Quindi, diciamo, dischi che sono sì complessi nel lato musicale, ma che hanno dei testi sicuramente molto più facili a livello, se vogliamo, di ascolto. Soprattutto perché magari utilizzano pochissime voci in growl, quindi voci magari gutturali che possono rendere anche più difficile, se vogliamo, la comprensione dei testi. Assolutamente. Quindi la mia domanda a questo punto è: perché per un disco così specifico nel tema hai scelto il black metal? Dato che tu poi non sei povero di generi che hai toccato e che tocchi tuttora con mano. No, quello assolutamente. Anzi, diciamo che una mia grandissima parte di anima, come già saprai, è inerente all'ambito folk. Perché il folk è probabilmente ciò che ha dato il natale a tutto quello che è il mio interesse per la musica. Per cui, diciamo, decontestualizziamo un attimo il Rerum Natura e impostiamolo su qualcosa che sia una pura. È anche difficile da esprimere, ma una pura entità filosofica della vita. Perché Tante volte ci capita che ci ritroviamo magari in un singolo momento in cui noi, immersi nei nostri pensieri, ragioniamo non solo su noi stessi, ma su tutto il circondario, sul nostro percorso, su ciò che ci ha portato a un'evoluzione effettiva, che non per forza concerne l'ambito artistico, anzi, bensì potrebbe riguardare, ecco, la più mera delle passioni che ognuno di noi ha, dalla semplice lettura di grandi classici o alla lettura di romanzi, fino a, appunto, scritture di questo genere, ma che tangono allo stesso tempo mille altri contesti, alla scultura, arte visiva, la recitazione, e ve ne sono molteplici. La musica sicuramente, a parte per una mia passione personale, è d'enorme interesse perché riesce in un certo qualche modo a racchiuderle tutte. Sì. Detto ciò, cercando di stringere una domanda non semplice in realtà, direi che applicarla ad un genere così è stato l'ispirazione stessa di tutta la lettura che riguarda il libro, per il semplice fatto che è un libro che mi ha accompagnato in un percorso di vita, e non mi vergogno a dirlo, nonostante a 2000 e passa anni, è un testo sorprendente per quanto sia attuale, per quanto sia concreto, e talvolta si sottovaluta proprio perché è frutto di visioni antiche, di mondaneità ormai trascorse, però in realtà non è così. È qualcosa che forse oggi, in una società così avanzata, sarebbe anche bello riscoprire. E ti chiederei a questo punto di farci un po' la parte un po' wikia, se vogliamo, della cosa, perché sì. se puoi, per tutti noi che magari certo. Non l'abbiamo trattato, io in primis, cos'è il De Rerum Natura e cos'è per te il De Rerum Natura? Allora, partiamo dai concetti base. Il De Rerum Natura è un libro, un poemio, diciamo, diviso in 6 libri nello specifico, scritto da Tito Lucrezio Caro, un poeta latino di cui, paradossalmente rispetto a molti altri, abbiamo una scarsità di informazioni notevoli. A livello proprio di biografia? Di biografia, sì, esatto. Rispetto a un Cicerone di cui abbiamo dati certi su vita, morte, trascorsi, Tito Lucrezio Caro è stato per anni quasi evanescente nel contesto della letteratura latina. La sua sola opera superstite è appunto De Rerum Natura, e al contempo ci ritroviamo con informazioni sulla sua vita alquanto vaghe. Non sappiamo di preciso l'anno di nascita. Gli storici sono in contraddizione, c'è chi dice nel 98 avanti Cristo e c'è chi dice nel 94. E l'anno della morte è dibattuto tra il 54 e il 50 avanti Cristo. Piccola parentesi su Lucrezio: è morto sì molto giovane, si sospetta per suicidio, o almeno molti storici anche nell'alto medioevo ne discuteranno, si presuppone appunto per suicidio. Non sappiamo l'effettività di questa informazione, ma la diamo per buona partendo dal presupposto che il De Rerum Natura è un'opera incompleta. Il sesto libro, che sembra in un certo qual senso autoconclusivo, in realtà non lo è. In realtà è soltanto una nuova apertura su quello che sarebbe stato lo sviluppo del suo concetto. Ma quindi è una collana di libri, stiamo parlando, non di un singolo testo. Sì, nel mondo latino è molto comune questa usanza, raccogliere in più capitoli, chiamati liber, anche se sono dei libri appositi, vari concetti. Il De Rerum Natura è incredibile, lo dico così senza remore, proprio perché al di fuori dei 6 liber è strutturato in una maniera incredibile, partendo che ogni coppia di libri, ogni diade di libri, tocca dei concetti diversi. I primi 2 sono puramente di ambito fisico, il terzo e il quarto invece toccano quello che riguarda l'antropologia, e il quinto e il sesto vanno a toccare la cosmologia, senza però discernere quella che sia l'ambito storico e di altre varie nature. Detto ciò, anche lo stesso verso dell'opera è incredibile, già per i letterati antichi, perché fondandosi sulla dottrina epicurea, che era una dottrina scientifica del mondo ellenico, da cui appunto lui trae la maggior parte delle sue informazioni e le evolve, egli prende una metrica incredibile, che è di natura greca. Però che succede? Lui l'adotta al latino, dove purtroppo non vi è questa stessa capacità ritmica E nonostante tutto lui ce la fa, in un linguaggio anche molto semplice, alla portata di tutti. Lucrezio ha creato un qualcosa che nessuno si aspettava, non solo per il contenuto, ma anche per la forma. È un mix incredibile di filosofia, poesia, di un'infinità di aspetti che lo stesso Cicerone, assai critico nei confronti dei suoi contemporanei latini, non è riuscito a intaccare né con la sua critica né con la sua efferatezza nell'ambito politico romano. Ora, io non essendo figlio del liceo classico, ovviamente, Io però, tantomeno. no, però, ok, però diciamo, avendo vissuto in un contesto in cui magari anche grazie a te, perché, vabbè, lo dico chiaramente, io e lui ci siamo conosciuti nella scuola di rievocazione storica e scherma storica, di cui ho parlato già nel Mattino Loro in podcast. Forte braccio Vere Grenze, e con lui diciamo mi sono sempre confrontato con te veramente in temi Chiacchiere esaltanti infinite. oltremodo, perché sul serio è bello poter parlare con una persona che studia queste cose e che le comprende a fondo e riesce anche a magari a rendertele più facili a te che non hai una base solida su cui fondare le tue nozioni. E no, quello che volevo dire è questo, cioè che quindi mi stai parlando di un autore che quantomeno che ha preso magari il meglio di un mondo, se vogliamo altolocato, visto molto etereo, così, Sì, anche sì. idealizzato se vogliamo, cioè quello greco, e lo ha portato in un contesto, se vogliamo, un po' più nostrano, un po' più provinciale, passiamo il termine, come quello Assolutamente. latino, e lo ha reso più semplice, lo ha reso comunque alla portata dei suoi contemporanei, dei suoi conterranei. Ora, ti faccio questa provocazione, tu ti senti di averlo fatto? Di aver fatto questo stesso lavoro nell'ambito black metal, cioè quanto il black metal riesce ad essere ricettivo nei confronti di questi temi così, magari avanti per quanto riguarda lo studio della storia e della cultura. E Ma quanto allora, pensi di aver portato, grazie a questo disco, quanto pensi o quanto speri di aver portato? quanto spero è una domanda che sinceramente non mi sono mai posto, proprio perché mi sono ritrovato a comporre questo album in una maniera in cui in primis ho messo in gioco me stesso, perché avevo già curato dei progetti solisti, ma non di una complessità compositiva come questo lavoro. E che per l'appunto non aveva un obiettivo specifico se non quella della mera espressione artistica. Per cui, diciamo, non nasce con un obiettivo. Terrarum Natura nasce come fonte di ispirazione che abbisognava, o almeno nella mia vita ne aveva sicuramente bisogno, di una forma. Io ho dedicato l'intera opera con umiltà al maestro Tito Lucrezio Caro, proprio perché la sua lettura mi ha guidato in un percorso di vita particolare che spero in un certo qual modo possa aver innalzato il mio spirito. La forma in musica che ha assunto tramite l'album Terreno Natura sicuramente è particolare, premettiamolo. Si parla di black metal, un metal assai estremo, voci distorte, chitarre putride, oserei dire, E dalla mi loro permetto anche saturazione. un'altra provocazione, Certo. legandomi anche alla domanda precedente, proprio sulla sua fruizione, dato che è un concept album, quindi già di per sé deve essere compreso appieno. Come Certo. qualsiasi disco ci mancherebbe, però il concept album diciamo che nasce come concetto del io ti sto raccontando qualcosa di molto specifico, di molto preciso, quindi tu hai bisogno di stare attento. Non è semplicemente Certo. un goderti un'atmosfera. O magari ascoltare solamente per godere della musica, ma qui c'è magari un concetto base che fa da collante alle canzoni e soprattutto dà loro una continuità. Cioè il Certo. disco, il concept album per eccellenza è quello che si ascolta all'inizio e alla fine senza saltare i pezzi. Poi per carità, per il gusto musicale ci sta il pezzo che ci piace ascoltare da solo, però è chiaro che Certo. senza il resto della struttura una canzone, a meno che non è fenomenale, non regge. Quello che mi chiedo è proprio questo, cioè il black metal come genere è molto elitario, se vogliamo, per certe cose, Sì, è un sì. genere che tende a escludere l'ascoltatore mainstream, perché è chiaro che certe sonorità non sono digeribili a tutti. Quindi Assolutamente. è da capire pure il motivo che spinge tanta gente magari ad avvicinarsi a questo tipo di musica e E soprattutto se hai già avuto magari dei feedback da parte di ascoltatori un po' più navigati di questo genere. Allora, parto dalla fine dicendo che sì, per quanto concerne i feedback, proprio perché il mondo del black metal, inteso nelle sue infinite sfumature che ha assunto oggigiorno, è fatto di principalmente ascoltatori attenti, e questo l'ho sempre adorato e sempre amato. Il fatto che è un esercito, letteralmente un esercito di persone che non si fanno problemi di fronte a canzoni come questo album che arrivano ai 15 minuti, bensì cercano di approcciarlo con il giusto spirito, con la giusta volontà di comprenderlo. I feedback sono stati non enormi, un po' anche forse per mia mancanza di diciamo costanza nella promozione dell'album, ma quei pochi che ci sono stati ottimi, e io in primis come compositore ne sono stato assai felice, perché ho saputo che navigando anche un po' sulla tua pagina hai avuto una recensione anche negativa che hai voluto però riportare da parte di una sì. Non sono riuscito a ritrovare però l'articolo vero e proprio, perché ho visto solo il tuo post su Facebook. Allora, però cosa diceva quella titolo, recensione? Titolo, se non ricordo male, si chiamava Inside the Darkness, una webzine che si occupa di recensioni metal, che ahimè hanno dipinto l'album anche con belle parole, dicendo qui c'è sicuramente del talento, qui c'è sicuramente voglia di mettersi in gioco e di sperimentare, ma l'ascoltatore commenta più plurime volte il fatto che sia troppo lungo, nel senso non mancano frasi proprio quasi di scherno, addirittura lungo, lo lunghissimo, è una canzone di 11 minuti, ne segue una di 12 e poi quella di 13 e poi, premettendo che quella che dura meno è una specie di off track da giusto 7 minuti e 30, non posso dargli torto, per carità. Cioè, comunque con 6 tracce abbiamo toccato 1 ora e 10 di album, quindi direi che sì, è bello saturo di corposità. Però ammetto anche, da un lato, per autospezzarmi una lancia, non so se si può dire, ma penso sia giusto farlo, che un po' anche il contesto di questo genere ti porta a creare canzoni così lunghe. Non è un obbligo, non è un'essenzialità, ma da sempre tutto quello che è un po' atmosferico, considerando che richiede il suo giusto tempo per sviluppare un brano, anche un semplice riff che man mano nella canzone prosegue e lo rincontri magari dall'inizio alla fine giusto una volta, richiede il suo tempo. E purtroppo, come già sentiamo anche sotto, mentre questi pianoforti accompagnano 2-3 minuti di canzone che fino a 2 minuti fa era urlata come... Ah, ci dicevano ormai che forse non riescono a sentire gli asset, ma per colpa mia, però magari vi inviterò a riascoltare magari la versione podcast se avete interesse di riascoltare questa intervista, e chiaramente se non c'è metterò la traccia sottostante, perché ci fa da, come ti dicevo prima, cena, la utilizzeremo come colonna sonora, esatto, tutta questa intervista, per farvi capire come uno dei modi con cui si può ascoltare black metal e soprattutto come lo si può approcciare. Sì. Certo, mica per colpa nostra, cioè, ci mancherebbe, giustamente. Beh, certo. Dicevi, scusami. No, niente, dicevo che comunque in paragone a molti altri colleghi dall'underground al livello dei grandi maestri, diciamo che più o meno il minutaggio forse non è esagerato come nelle mie ultime canzoni, però ci aggiriamo sempre lì, dagli 8 minuti ai 10, agli 11, chi più ne ha più ne metta, però diciamo è un po' un format classico di questo contesto che spero non spaventi un ascoltatore anche curioso in un tale ambito, in un mondo che già forse lo stesso parola black metal tende a spaventare un po'. Chi lo conosce lo può conoscere con varie sfumature, però quello che noi abbiamo cercato di toccare con questa nuova frangia, diciamo, questo nuovo sottogenere, l'atmospheric, è proprio la capacità evocativa, che può nascere da un concept ben strutturato, che può nascere da una semplice idea che magari trova una serie di sviluppi e che appunto possono essere schedulizzate in maniera molto validificante all'interno di un album o addirittura di una discografia. C'è chi lavora una vita intera per una discografia coerente, e sono molteplici gli artisti. Il tutto è nato a metà degli anni 90 addirittura con primi artisti quali Windir e Summoning, che cominciavano a trattare addirittura temi tolkieniani. Quindi erano questi album pieni di atmosfere e suoni, anche ripresi da decenni prima, dalla musica dance anni 80 e 90, questi synth molto particolari, dalla musica psichedelica, ma con tematiche poco comprensibili dovute alle voci con questi sistemi estremi, ma ricollegate al mondo, ecco, partendo dal fantasy, ma poi hanno toccato letteratura, cinematografia. Gli esempi sono molteplici e ne potremo parlare a lunghissimo. Ma infatti c'è questo fatto che la musica ha sempre cercato grandi suggestioni, prima di essere se stessa una suggestione per tante persone. Però è chiaro che i media si mischiano fin tanto che c'è la possibilità di prendere ispirazione da qualcosa che ci piace, che ci ispira. Cioè, penso agli esempi classici, penso a, che ne so, a quel film, per esempio, non so se lo conosci, quell'esperimento cinematografico che venne fatto dalla Disney tra proprio Walt Disney in persona e Salvador Dalì. Ah, sì, come che no? Prese proprio ispirazione dalle opere di Salvador Dalì per creare una sorta, passiamo in termini, di fantasia, che in realtà fu un altro successone sempre della Disney come diciamo come concetto artistico fine a se stesso, se vogliamo, però ha lasciato sicuramente un esempio cardine di come può funzionare questo discorso, cioè il mescolarsi. Ti voglio fare un'altra domanda che esula un po' dal discorso che stiamo facendo. Tu, certo, come vedi le contaminazioni nella musica? Cioè, se un giorno ti venisse magari un rapper o un trapper o qualcuno che magari non fa parte del tuo, diciamo, della sfera di influenza che tocchi giornalmente, ti proponesse, guarda, facciamo un album insieme, come valuteresti l'offerta? Allora, tornando alla pre-domanda di questa domanda, adoro le contaminazioni perché sono ciò che ha creato l'enorme, sconfinato panorama musicale che abbiamo oggi. Negarle e voler tapparsi gli occhi volontariamente per me è un atto di disgrazia verso la musica stessa, per chi la compone ma anche per chi la sente. Bisogna saperle accettare laddove però vi è concretezza artistica. E qui mi ricollego alla seconda domanda, in cui sì, perché no? Se venisse un rapper ma che davvero abbia compreso ciò che ci accingiamo a scrivere, che ne abbia appieno la natura e che ne abbia assimilato ogni singolo concetto e ne trovasse la sua giusta formula, il pezzo in realtà si scriverebbe da sé. Non ci sarebbe neanche bisogno di dire facciamo una cosa così, ci mettiamo a tavolino. Mi è capitato, per mia esperienza umilissima personale, ma in molti progetti, di ritrovarmi a suonare con musicisti che, quando c'è quell'enfasi, quando c'è quella natura, ci si ritrova a scrivere musica senza neanche accorgersene. Cioè si parla, si stanno esprimendo concetti, parliamo del più e del meno e stai già facendo musica, tu non lo sai. Quella che poi tu porti su una scala di 12 note è un plus, ma quel plus, se non ha la base, ciò che abbiamo citato adesso, purtroppo non ha motivo e non ha possibilità di né di nascere né tantomeno di svilupparsi, ovviamente. Per cui sì, ben vengano le contaminazioni, ma ben venga prima la concettualità compresa appieno della sua potenzialità, ecco. Simone ci fa la domanda, ma esiste veramente un genere puro? Questa è una domanda. Cioè uno effettivamente senza, cioè con i massimi argini, proprio tenuta stagna, esiste qualcosa? Forse solo il noise. Ne siamo sicuri? Anche lì ci avrei. Perché effettivamente noise, sto pensando, che ne so, che assomiglia molto al jazz metal. Sì, cioè io ho avuto modo di ascoltare una band jazz metal nella mia vita, non mi è piaciuta per niente. Perché credo che ci sia lì, per esempio, quello, mio parere personale, poi non offendetevi se amate il genere, mio parere personale è che, per esempio, il jazz metal è un tentativo molto, molto forzato di unire due cose che apparentemente potrebbero condividere delle determinate caratteristiche, come magari la ricerca in certi casi di un tipo di eccesso, certo, una voglia di sperimentare al massimo, e magari la mancanza totale di paura di, diciamo così, di fare una merda. Lo dico proprio Ci sta. chiaramente, perché nel jazz comunque vige magari anche tutta una regola compositiva molto particolare. So di amici che hanno studiato proprio composizione jazz e mi hanno detto: guarda, io come mi sono approcciato al jazz è così. Prendi tutto quello che hai studiato a conservatorio, che ne so, musica celtica, rock, metal, classica, così, buttalo tutto. Assolutamente. Tanto la composizione jazz è completamente diversa. E penso che sia molto simile per certi versi, per quanto riguarda alcune sfumature del metal. Perché magari. Penso alla composizione di un album death metal che invece è molto più, se vogliamo, anche orecchiabile per certi versi, perché cercano magari alcuni passaggi che devono essere belli spinti, in cui tu puoi ballare, in cui tu ti puoi menare, Certo. quindi devono essere magari un po' più dritti, un po' più sincopati, Cadenzati, sì, più certo. cadenzati, perché devono garantire alle persone, diciamo, il ritmo giusto per saltare e menarsi. Mentre nel black metal, per esempio, questa cosa è molto meno ricercata. C'è perché chiaramente alcune band sicuramente gli fa gioco che la gente salti e si diverte. Ok, però per tante altre, per esempio, sto pensando per esempio al tuo disco, questa cosa è molto meno presente, perché probabilmente questo è più un album da ascolto, è più un album che devi sentire con le cuffie, devi interiorizzarlo, devi sentirlo da solo più che con un'altra persona. Perché con un'altra persona, diciamo, l'esperienza che può avere un ascoltatore rispetto a un altro è totalmente personale. Assolutamente. Nel death metal c'è questa cosa che io e te balliamo e sentiamo la stessa energia, la stessa Esatto, vibrazione. esatto. Nel black metal invece la parola che ti viene fornita è per te. Sei tu che dici, ma che è sta merda, oppure oddio, è così che mi sento. Che è la cosa che è più bella nella musica, quando riesce a essere al tempo stesso elitaria, ma non troppo, se vogliamo. No, E giustissimo. tu, quando hai composto questo disco, no? Cosa pensavi, sinceramente? Cioè, quando hai pensato a cosa dovesse immaginarsi la gente? Cioè, ti sei fatto questa domanda o hai pensato solo al tuo di gusto? Allora, sembrerà forse anche una risposta egoistica, ma no, non mi sono curato dell'approccio al pubblico, proprio perché forse la natura, come già sollecitato tu sulla bellissima domanda di Simone, poi che comunque mi congratulo perché è Oh, stata, signora domanda, il nostro cioè, veramente priore. una domanda d'oro. Simone, nostro Alzo le mani, priore, assolutamente. complimenti. E, no, dicevo che comunque non mi sono curato per il semplice fatto che la forma è stata letteralmente puro frutto di una ispirazione che è nata da due o tre riff concatenati al volo e nonostante avessi all'attivo già altri progetti, avrei dovuto lavorare Di ad cui altra voglio musica. parlare con te Ma sì, assolutamente. ne parleremo. Però nonostante avessi, diciamo, già lavoro a casa, mi sono portato a casa altro lavoro. E ne sono stato felice però, perché comunque è stato molto diretto, una canzone si è velocemente collegata all'altra e la scrittura è stata estremamente spontanea, oltre che soddisfacente, ma non per il lato compositivo, ma proprio per la capacità emotiva che sento almeno di essere riuscito a dargli con tutta l'umiltà del caso, ovviamente. Però considerando che l'intento era celebrare il maestro Lucrezio per un'opera che rinnovo a tutti gli ascoltatori di leggere perché personalmente mi ha cambiato la vita, penso di aver fatto il mio, ripeto, con tutta l'umiltà del caso, l'italiano mi abbandona. E sì, però purtroppo l'ambito black metal, come dici tu, è estremamente introspettivo. Ai concerti metal capita sovente di ritrovarsi sotto palco, pogare, divertirsi, ballare, dipende ovviamente dal contesto e dalla Anche situazione. dal gruppo, forse. Assolutamente. I concerti black metal, nella media, sfrutto la telecamera per chi ci vede, la maggior parte del pubblico, se non l'esclusività del pubblico, è così. Braccia conserte, sguardo fisso verso il palco. E neanche una parola nei confronti dell'amico con cui si è fatto magari 40, Esatto. 50, 70 chilometri con te per quel concerto. Perché stai vivendo l'attimo, soprattutto nei contesti quelli più atmosferici, come nel caso di Primordial Woods, ma di molti altri. Saper cogliere la delicatezza di quelle sfumature che toccano la brutalità del genere estremo a tutte quelle sonorità invece sognanti, evocative, è proprio parte del viaggio per cui tu ti sei fatto quei 30, 40, 50, anche 400 chilometri, ma che comunque una volta lì li contempli. E quello è il tuo momento, è la tua circospezione e sei tu di fronte alla musica. E personalmente la trovo una cosa fantastica, per quanto, come detto con te, io suono anche altri generi, conosco altri contesti musicali e li apprezzo di conseguenza. Ma quell'introspezione che vivi nell'ambito dei concerti black metal, soprattutto di questo stampo qui, la ritengo unica. Unica nel suo genere e è veramente qualcosa che invito tutti a fare anche in un comodo ascolto da casa, con le cuffie, con il proprio stereo di fiducia, insomma. È qualcosa che non fa mai male. Riscoprire anche la musica più scatenata, ma dandovi il vostro tempo, dandovi se, il vostro, se siete tempo. Amanti del vintage, riscoprite il vinile addirittura. Stavo leggendo tra l'altro che i Metallica hanno comprato questa fabbrica di vinili a quanto pare, e che il vinile in generale ha superato i CD a livello di vendite. Il CD quindi è passato dall'essere una tecnologia migliore ma comunque meno richiesta. Esatto. Nonostante il vinile effettivamente sia soggetto molto di più al deterioramento precoce, insomma. Esatto. Quindi ogni ascolto, se vogliamo, è prezioso, molto più prezioso del precedente. Quindi è interessante questo aspetto. Adesso vorrei provare una cosa. Siccome penso di aver capito qual è il problema, però non vorrei fare danni, però vorrei anche che voi vi godeste un minimo la cosa di quello che stiamo facendo qui da queste parti. Quindi se riesco a farvi sentire un po' dell'album di Nicolas, facciamo un attimo una pausa chiaramente e vi facciamo sentire un pezzo. Nel frattempo mi arriva cosa e no, bellissimo. No, torniamo un attimo qui con i microfoni, bello. Cosa sto facendo? Niente. Cosa posso fare? Vediamo. Vedo se riesco a farvi sentire un pezzo del disco e noi facciamo un attimo una pausa. E niente, purtroppo non sono riuscito a far funzionare questa cosa, purtroppo il signor voice meter qui non mi sta dando una mano, forse dovrei adottare la versione ultra pro dello strumento. Così forse da poter... l'album che gli è piaciuto. No, tranquillo, l'album mi è piaciuto sicuramente perché ho fatto sentire veramente la qualunque al signor Voismeter l'ha sempre, cioè non ha mai dato problemi in questo senso. Ma non è il tuo disco il problema è che siamo tutti un po' stronzi da queste parti, quindi quando le cose devono funzionare non funzionano, quindi anche dalle mie parti siamo ma allora vedi, il mondo è paese. Quindi dopo questa breve pausa che voi in diretta avete sentito purtroppo sotto forma di mic aperto, ma spero fisserò tutto quanto in ovviamente in post produzione, torniamo un attimo a fare un po' di domande qui a Nicolas, assolutamente abbraccio. E a questo punto vorrei entrare nel... Facciamo due nomi a questo punto. Tu hai citato fra i vari progetti che segui, allora, innanzitutto Xenon, sì, che è il tuo nome d'arte, ma è anche il progetto musicale, se vogliamo, principe che adesso stai seguendo, se vogliamo quello, forse il primo, non il primo, ma forse quello principale. Sì e no, diciamo. Per la mia visione non esistono seconde band, secondi progetti. Ci tengo a precisarlo laddove ci fossero miei musicisti in ascolto, ma non per paracularmi, ma proprio perché è una cosa che già loro sanno. E laddove tu ti prendi un impegno artistico con una band di qualsiasi natura essa sia, è giusto che lo porti avanti con la stessa dedizione che dedichi alle altre. Di recente mi è capitato di unirmi ad altri progetti musicali che mi hanno chiamato loro. Si sono ravvivate fiamme invece di progetti che anni fa andavano alla grande e poi hanno visto uno stallo, un periodo di attesa non meglio definito, e che adesso appunto stiamo ritornando a proporre in giro per l'Italia. E detto ciò, sì, diciamo Xenon sicuramente ora ha assunto una nuova forma. Nasceva come piccolo progetto, anche questo di valorizzazione territoriale, laddove inizialmente era molto grezzo. Mi facevo semplici video in luoghi di interesse, le nostre montagne colpite dal terremoto del 2016, e proponevo dei racconti in musica, in stile molto martico, per rivalorizzare queste zone. Adesso, complice magari una maggiore capacità di portare in studio quella musica, complice magari nuove conoscenze e nuovi percorsi di vita, da un anno a questa parte Xenon è diventato un progetto in formato band all'attivo, intanto che ora ci chiamiamo Xenon and the Corrigans. Perché questo nome? The Corrigans, ahimè, è già una band di Roma che non che posso certo, giustamente calunniare, tanto più conoscendola, e non volevo ripetere l'errore di creare un duplice nome. Per cui abbiamo tenuto la radice di Xenon, che neanche a farci apposta, in un contesto prettamente folk, di musica celtica, Irish, quindi roba molto allegra, molto solare. Capitano spesso questi nomi dove il portatore dell'idea si mantiene lì in bella vista, certo, mentre poi si allega un di più che è parte della storia. Penso che non serva citare per le nostre parti il grande esempio di perle miliari ispiratori per tutte noi dei Mortimer McGrave, al tempo chiamati Mortimer McGrave sulla figura del buon Maurizio, sì, allegati ai The Barrelheart. Quindi, diciamo, abbiamo seguito quello stesso modello, ma che molti, molti, molti altri nell'ambito folk hanno fatto. Esatto. E vivendolo ho anche capito il perché. Cioè, inizialmente mi chiedevo, ma perché questo nome? Cioè, faceva molto musica italiana. Certo. Vasco Rossi, la band, sti cazzi, non la conosce nessuno. Nonostante ci siano dei musicisti, esatto, della Madonna. Fuori di testa, però tu conosci Vasco Rossi. Sono andato al concerto di Vasco Rossi. Non citi che la chitarra c'era Andrea Braido, esatto. Ci siamo capiti subito, sì, vero? Però sì, ecco, ho comprato un suo CD che è fenomenale. No, io ho visto dal vivo, mostruoso. A noi è venuto a fare una clinic addirittura a Montefalcone, Appennino, cioè, quindi poi assurdo. Nonostante, capito, posto in culo 400 anime, capito, no, però è venuto anche lì, è ben disposto a tutto. Mamma mia, di brutto. Grand'uomo. Però la musica italiana ci vizia, questo nome che fa eco, quando invece la musica Irish lo apprezza alla stessa maniera, però si dà il fondo alla band. Ci sta che uno traina l'idea e traina il gruppo. Se non si opta per un nome della band, Quel nome si mette in risalto magari perché prima solista, come nel nostro caso, e poi si allegano i colleghi. Certo. E qui saluterei appunto i miei carissimi Corrigans, che sono questi troll, diciamo, della tradizione celtica, con cui noi abbiamo creato questo show fatto di musica folk e storytelling sulle storie delle montagne marchigiane. È molto bello, soprattutto perché a me inorgoglisce molto, come anche a te, cioè inorgogliscono molto le nostre origini, che sono piene di storia, cultura e tanta tradizione popolare, che penso che sia stata un po' la... Se, ora, mi permetto di dirlo, penso che sia un po' anche la tua... se vogliamo il core business, mettiamola così, il tuo fulcro centrale, così, a cui però... attorno però hai fatto ruotare parecchie delle certo. tematiche dei tuoi dischi, delle tue opere, così, perché conoscendoti so che tu quanto tu ci tenga a queste cose, l'hai giustamente rimarcato anche con il progetto di Xenon, The Corrigans, ma oltre a questo però ti sei ritrovato ad occupare lo spazio in svariate band. Penso, tu hai citato per esempio troppe vecchi progetti che però tornano in vita e lo hai citato prima, il gruppo Hagen. Assolutamente. Che anche lì vi permetto di salutare, visto che praticamente conosco tutti i membri della certo. band, quindi ciao ragazzi. E, ecco, gli Hagen già sono molto diversi rispetto magari agli altri. Oddio, non così diversi, ma di sicuro sono particolari e te li ricordi, ecco. Assolutamente. E ce li descrivi per favore, gli Hagen, mentre io vado un attimo a droppare qui link vari da mettere nelle chat. Gli Hagen, beh, questa mi hai lasciato un compito non da nulla da descrivere, perché gli Hagen sono una band metal, sì, ma folk. Folk metal, per chi lo conosce, ovviamente anche il nome si deduce facilmente. Elementi folk si mischiano a il metal, nel nostro caso non troppo estremo. E però qual è la peculiarità degli Hagen? Che forse, e almeno che io sappia, ancora nessuno non ci è arrivato, è che il folk a cui facciamo riferimento non è la classica musica celticheggiante, non è... la classica musica epica, bensì sì, c'è lo storytelling, c'è anche qui la natura delle marche che mi ha collegato proprio a questo gruppo come membro e in tutti questi anni che ci hanno contraddistinto insieme, bensì è che il folk a cui facciamo riferimento è la musica marchigiana, che di metal non ha assolutamente e minimamente nulla, no, ma siamo riusciti a creare questo particolare mix fatto di epicità, goliardia, perché ce n'è un sì. botto, e posso dire che è un po' un sogno che si avvera per me, sì. aver scoperto questa cosa. Sì, infatti per me fu particolare quando mi approcciai a loro per la prima volta, non compresi subito quell'ambito, ma si sono riscoperti tutti incredibili musicisti, fantastici amici, e abbiamo avuto la fortuna di girare tantissimo l'Italia. Adesso che abbiamo riannunciato questo tour di reunion, siamo belli pieni di date, quindi per tutti gli ascoltatori in giro per l'Italia penso che ci rivedremo molto probabilmente vicino casa vostra, perché le date sono molto fitte. Meno male. Sì, almeno quello. E vi portiamo un po' di metal misto folk marchigiano in ogni dove. E speriamo che sia di gradimento, soprattutto perché a condirlo ci sono figure come quella di Rudolf, il nostro Leonardo Lasca, che è un tornado sul palco, capace di presentarsi vestito da Teletubbies o con una... non mi viene... un vaso con il fiore legato alla testa con una cosa da lui creata. Insomma... è uno show adatto a tutti, bambini, adulti e ubriachi soprattutto. Soprattutto, bambini ubriachi. Bambini no, ubriachi tanto più. Per voi che ascoltate Virgin Radio, voi sicuramente avrete sentito... No, Radio Freccia. Radio correggo. Freccia, hai ragione. Radio Freccia. Ecco, per gli ascoltatori di Radio Freccia, Leo, il buon Leo, è quello che ogni tanto fa degli interventi incredibili, che è diventato veramente parte degli show di... È il suo di... programma. Sì, ormai è lo show di Leo, quello lì, ma sul serio, che poi lui non è neanche, sai, un... un tossicodipendente, non è neanche. No, è una delle persone più sobrie che io abbia mai conosciuto a livello proprio alcolico, ma a livello proprio umano, invece, sembra sempre strafelice, se... è un Sì. folletto, è un cazzo di folletto quell'uomo. Io lo adoro veramente tanto perché vive la vita esattamente come tutti noi dovremmo vivere, cioè nella spensieratezza più totale, perché c'è sempre tempo per così per avere gli affanni, gli acciacchi nella vita, però se tu te li vivi come motivo di esistenza, è chiaro che c'è qualcosa che non va nella vita, mentre lui invece ha capito come funzionano le cose. Devi Esatto. essere non per forza felice, ma l'entusiasmo. Quello ci devi mettere sempre nella vita, perché è l'unico modo sano di campare a livello proprio concettuale, secondo Guarda, lui me. riassume forse la mentalità marchigiana di qualche decennio fa. Vivi la Probabilmente sì. giornata, ma vivila bene, perché quello meriti. Sarà la tazza di vino a cena a renderti felice dopo una giornata di duro lavoro? E goditela. E lui lo esprime. E metà della umile fortuna degli Egan penso sia dovuta a Sì. questa cosa che lui dimostra con un estro artistico, sì, tutto suo, ma non meno valido e qualificante. Perché è un fuori di testa che sa fare fuori di testa sopra un palco. Sì, lui devo dire assolutamente, ma come tutti gli altri, alla fine che Sì, sono assolutamente. parte integrante perfetta dello show, come anche Buon Federico, che Esatto. insomma, che anche lui mia fantastica parte, un pezzo di me fuori di me, praticamente, che sul serio, un fratello, un amico, come tutti in realtà, veramente. E che ti dico, poi per carità, lontani dalla spensieratezza degli Egan, però c'è tutto un universo, se vogliamo, oscuro e non Sì. di gruppi, di progetti a cui fai parte, insomma, in cui fai Sì, parte. ci sono una grande serie di chiaroscuri nel mio contesto musicale, o almeno in quello in cui io sono felice di operare. Da una parte è un po' come l'umanità di ognuno di noi che si scinde. Con gli Egan e con i Senorin and the Corrigans vivo la spensieratezza marchigiana, la voglia di riscoprire il territorio, la voglia di raccontarla a modo nostro sui nostri sistemi. Dall'altra, come parlavamo prima del black metal, fatto di introspezione, volontà di autoriscoperta e di riflessione, c'è tutto quello che è un altro mondo. C'è quello che tocca Primordial Vuz, che semplicemente, essendo un progetto one man band in cui sono solo io a curare il tutto, tendo a prendere insieme di pensieri, organizzarli, dargli una forma sotto un concept come quello può essere di The Rerum Natura e quello che sarà dei futuri lavori e metterlo lì. E lì c'è una constatazione, c'è un mettersi in gioco in primis per me stesso, ma anche di tutti i colleghi musicisti che compongono, e in secundis vi è la voglia di confrontare una piccola realtà, emotiva o sociale che sia, verso il grande pubblico, verso il mondo. Questo vale anche per altri contesti. Ad esempio, come ti dicevo, a ottobre sono entrato a far parte di questa ancora piccola band, mi viene da chiamarla. Ancora verde, È mettiamola così. giovane, sì, è estremamente giovane, ma non per la qualità dei musicisti, che anzi è altissima e a cui devo render lode perché mi ci sono subito ritrovato e per il discorso sempre di prima c'è stata subito quell'affinità, c'è stata la capacità, come dice il mio caro amico Sid dei Corrigans, di fare l'amore con la musica. È stato unico. E con appena un inverno e un accenno di basse scritte abbiamo creato un nuovo album che stiamo registrando attualmente. E che sì, darà voce a molte di queste sfumature oscure che penso in un certo qual modo risiedano nell'animo di ogni essere umano. Ad esempio, quando c'è quel richiamo un po' nostalgico, un po' emotivo verso la notte, intesa come macroconcetto, che è tanto misteriosa, pericolosa, ma allo stesso tempo attira, è segno d'avventura, è segno d'attrazione, è segno di misticità. Certo. E nei Fallet lo esprimiamo molto spesso questo concetto. Faccio giusto questo nome. Perché questo nome? Il nome Fallet? Allora, in realtà dovrei chiederlo ai ragazzi che avevano avviato il progetto prima di noi. Una peculiarità che so, ma che non so per certo in merito all'origine del nome, che Fallet in lingua albanese, non che abbia una correlazione diretta con noi, però sappiamo che vuol dire perdonato. Addirittura. È una scoperta puramente casuale. Però Fallet è un... Cioè non era voluto, non ho capito. No, non era voluto. Cioè, ti dico, il perché effettivo non lo so. Sono entrato postumo, è come Hagen. Anche se Hagen ormai dopo anni di militanza posso dirti che fu un nome scelto dal buon Rudolf in concomitanza con Eogan. Volevano un nome figo, epico, e allora eccolo, Hagen. Che l'unica cosa che si chiama in maniera omonima è un piccolissimo comune della Francia, nella provincia di Rennes-le-Château, di Reims-en-Provence, scusate. E niente, l'unica omonimia quando mettiamo i tag a Hagen è che ci sono foto di noi brutti loschi e il comune francese molto carino tra le montagne, una cozzaglia. Beh, speriamo che prima o poi ci arriverete a fare un... Guarda, concerto omonimo. Ci stiamo lavorando per fare un concerto a Agen, perché il nome in Francia è quello. Certo. E gli Hagen vorrebbero suonare a Agen, nonostante siano tipo 30 case, a esagerare. È una cosa che va fatta nella vita, cioè stiamo rompendo le palle al comune per poterlo fare. Non ci diranno mai di sì, però noi ci proviamo ogni anno. Mi dovete prima imparare francese almeno per poter entrare. Je parle français. Ah beh, allora a posto. Cioè ci siamo a posto. Nel frattempo arriva anche Vincent. Buonasera Vincent. Allora, chiaramente se avete delle domande per il buon Nicolas qui, che come sentite è una lingua sciolta, l'ho fatto bere apposta prima di arrivare qui, almeno non ha avuto problema, non li aveva comunque, però tante le volte, sai, uno si blocca, soprattutto quando entra in una cantina buia, nella varcaverna con un omone, insomma, con brutte intenzioni come il sottoscritto, uno magari potrebbe dire, magari no, bro, e niente. Che altro? Buon Nicolas. Faccio un'altra domanda da stronzo, tornando su Primordial Woods. Yeah. Ora, se tu dovessi ascoltare il tuo stesso disco, cosa diresti di esso? Da ascoltatore. Ok. È una domanda non facile, perché me l'hai fatta molto generica, perché ecco, già il contesto, come dicevamo, è molto peculiare. Cioè, per conoscere questa sua sfumatura di un ambito già di per sé estremo, devi essere un po' studiato, anche questo non è italiano, ma me lo concederai. Se fossi un ascoltatore generico, non è facile, perché ci ho provato, con amici non avvezzi proprio all'ambito metal, di qualsiasi natura esso sia, anche quello più blando. Che mi hanno detto? Mi hanno detto, da un lato, quando vai a farti esorcizzare, cosa anche abbastanza scontata quando fai un album di urla, sì, fitte senza una fine, e dall'altro invece hanno dimostrato uno stupore nel dire, ma tu, quelle linee di pianoforti, quei riff anche un po' sognanti, ma dove cazzo li hai tirati fuori? Altro esempio, forse banale, ma penso che tocca a ognuno di noi, mia mamma, spinta alla curiosità, dice, dai, sentiamo sta roba e vediamo. Stesso commento sull'esorcismo, grande classico intramontabile, e io ho detto, vabbè, ma, e che ce vuoi fa? Però, persino mia madre, non avversa a quello che è tutto il mondo, la roba più trasgressiva, penso, siano i Pooh, per la sua playlist, e ahimè non parlo dei primi Pooh, che erano fighissimi, progressive rock della Madonna, bensì parlo dei più blasonati Pooh, di Piccola Katie e tutto, ha detto, guarda, la musica, sinceramente, è bellissima. E io ho detto, oh, E questa l'ho da dire di fare. E però le voci, e vabbè, è da lì, è rimorto il discorso sul Certo. nascere. Quindi ecco, non saprei darti un parere mio, perché è difficile. Ogni orecchio ha il proprio vizio. C'è chi punta alla ritmica, chi alla melodia, chi alla ballabilità, chi Ok. all'ascolto. E no, a questo punto vorrei anche un po' accompagnarti perché questa risposta, cioè a questa domanda ci tengo e ci tengo anche che tu risponda. Certo. Ti voglio accompagnare un po' in questa domanda perché a questo punto mi chiedo effettivamente dove volevi andare a parare musicalmente parlando, perché abbiamo già trattato, diciamo, all'inizio le tematiche, eccetera. Quindi vorrei capire musicalmente a cosa volevi avvicinarti. Come ti doveva suonare in testa il disco e soprattutto se sei soddisfatto del risultato? Parto anche qui dalla fine. Sulla soddisfazione, sì, c'è. Soprattutto perché è stato il mio primo lavoro nel mio umile studio di casa, di cui ho curato tutto, dalla composizione fino al mixing, escluso il mastering, che ho affidato al buon Fabio Mariantoni, che spero sia in ascolto e saluto calorosamente perché è un grande amico, grande musicista e un grande tecnico del suono, che ha curato egregiamente il master tra una battuta e uno scherzo e quant'altro. E il lavoro finale sì, mi soddisfa. Avrei voluto che suonasse così, per il semplice fatto che suona mio. Cioè, quelle rare volte che mi capita di risentire il disco, perché ormai l'ho saturato nelle varie fasi di mixaggio come ascolto, lo risento e dico sì, ci sento il Xenon che è arrivato all'anno scorso componendo questa roba, in un percorso fatto di metal, folk, musica ambient, introspezione, voglia di mettere in gioco contesti letterari paragonandoli a un contesto societario moderno. Quindi sì, diciamo io mi ci ritrovo. Unica pecca che forse mi devo dare. Qualche callo nel mixing e nel mastering che forse avrei dovuto curare di più, ma ahimè c'è stata una grande fretta nelle ultime fasi di produzione perché dovevo traslocare per dei lavori che raccontavo al buon Certo. Leo prima cena che incombevano sulla casa in cui avevo lo studio Certo. e l'ho dovuti fare in maniera un po' sbrigativa. Forse un piccolo momento in più da dedicare all'ascolto del mixing. E quindi alla fase finale del mastering avrebbe reso il tutto idealmente. Ma niente che non potrò recuperare in futuro con una Certo. remaster. Con una Quindi, remaster, certo che ben venga. è un tema che sicuramente si può rifare, perché il remaster è qualcosa che si fa per i Certo, dischi. certo. Certo, magari è più relegato, sai, a quei dischi che hanno, I classici, diciamo. sì, dei Sì. valori storici di un certo tipo, però alla fine non è detto che qualcuno, magari riascoltando la sua stessa musica, dica, questo è un mio lavoro giovanile. Bello, non mi sento di buttare niente di quello che ho fatto, non rinnego niente di quello che ho Esatto, fatto, esatto. però gli voglio dare un valore aggiunto. E qui chiaramente si parte per discorsi un po' più tecnici, perché non è che vai a riscrivere le canzoni No, no, o il certo. senso stesso del disco, aggiungere parti, eccetera. No, gli dai una Anzi, nuova linfa. ti dirò da quel lato, anche laddove certi riff, certi passaggi, risentendoli avrei detto, ma avrei potuto metterci di più. Tante volte, per come a me piace interpretare la musica, l'istintività del momento, quando tu ti ritrovi in studio, metronomo e chitarra alla mano, è più efficace, nel senso che hai una scrittura spontanea. È come quei famosi cantautori che i testi li buttano giù tutti in una botta e poi magari revisionano soltanto 3-4 parole per farle andare più a tempo. Mi piace vivere la scrittura della musica in questa maniera, Sì. spontanea, diretta, sufficientemente immediata e anche laddove ci sarà da apportare una miglioria, va bene, non la farò, sarà una lezione, una coscienza che porterò nel prossimo lavoro. Sì, poi la musica è piena di leggende, che hanno scritto magari album storici in un tempo incredibilmente breve. Ma anche Esatto. altri che magari si sono presi una vita intera per poi tirare fuori un album che ha lasciati un po' così. Faccio due esempi al volo, sto pensando a Cowboys From Hell dei Pantera, scritto leggenda vuole in una settimana, poi non so se sia vero o no, però dicono che ci abbiano impiegato veramente pochissimo a farlo. Parliamo proprio da cima a fondo, nel senso scrittura e composizione, eccetera. Poi, vabbè, chiaro, tutte le fasi di composizione e mix e registrazione, Certo, ovviamente quelle certo. hanno i loro tempi tecnici inderogabili, chiaramente. E un altro album invece, l'ultimo album, che adesso non mi ricordo il nome, dei Tool, altra Ah, sì, certo. storica band che era diventata praticamente per i primi anni del 2000. Era diventato Meme, questo cioè. meme dei Tool che fanno aspettare un nuovo album. C'è gente che metteva le foto degli scheletri, still waiting for the new Tool album. Poi, quando c'è stato effettivamente la release, il rilascio del nuovo album dei Tool, la gente è rimasta un po'. Non era un ascolto facile, eh. No. Spezzo una lancia a favore dei grandissimi, ma. Però è proprio questo il punto, che magari la gente, dopo tutti questi anni, si aspettava magari un sacro graal della musica. Ma Si certo. aspettava di rimanere veramente flashata, proprio fulminata sulla via di Damasco, quando in realtà non è così che funziona la musica. No, La per musica nulla. non deve essere un qualcosa che a priori ti ammazza l'umore oppure ti svolta la giornata. Quando Esatto. succede è un miracolo e te lo devi godere, ma non devi pensare che questa cosa avverrà. No, no, Io, assolutamente. per dire, ho avuto questa sensazione pochissime volte nella mia vita, cioè ci sono poche fasi in cui una canzone mi ha letteralmente cambiato il mio modo di vedere le cose. Ci sono pochissimi momenti in cui che mi ricordo che sono stati così. Uno di questi, abbastanza recente, è stato con l'ascolto dell'ultimo album di una band sconosciutissima ai più, però che io reputo tra una delle mie preferite, ovvero Green Carnation. I Green Carnation sono questo gruppo fenomenale progressive metal norvegese, se non sbaglio, che ho avuto anche la fortuna di andarli a sentire in Olanda, e sono fenomenali. Sono un misto di metal che riesce a essere bello spinto, bello carico, ma anche di forte introspezione. Tra l'altro, per tutti gli ascoltatori di Runtime Radio, c'è una puntata di MDB Summer Radio che vi invito a recuperare. Fu la mia seconda partecipazione al programma di Alex, in cui io praticamente chiesi ad Alex: senti, te la posso fare io una puntata? Devi solo mandarla in onda, la preparo da solo. Perché quella puntata, te la racconto, c'era solamente il disco che andava dall'inizio alla fine, solo che il disco è una canzone sola che dura 1 ora e 10 minuti, tipo. È una Ok. sola canzone che è una grandissima progressione e racconta la storia di una sorta di sogno, un sogno lucido fatto da questo viaggiatore, così, però è un sogno che è stato, diciamo così, pensato dal chitarrista della band, se non mi ricordo male, a seguito della perdita di sua figlia e della nascita di un altro figlio dopo questa perdita. Quindi diciamo che c'è questa nascita e questa morte che Sì, c'è un si. passaggio netto. Esatto, che. Diciamo che accompagnano lo spettatore, che è un disco veramente fenomenale. Si chiama Light of Day, Day of Darkness. È un viaggio veramente impressionante. C'è dentro di tutto il prog, il black metal, il death metal, c'è tante suggestioni. C'è addirittura un momento che tanti non riescono a cogliere, a comprendere e a apprezzare. Io lo adoro, francamente. C'è un assolo di voce. Un assolo di voce che è solo questa cantante che fa dei gorgheggi, no? Che sono quasi un urlo strozzatissimo e potentissimo, che non saprei neanche descrivere, però è letteralmente un assolo di voce. Non È c'è nessuna evocativo, parola. diciamo, Sì, sì. tutti gli strumenti si tacciono, rimane solo il silenzio. C'è solo questa che fa degli acuti che sono bellissimi, secondo me. Però tanti skippano quella parte perché o la trovano troppo strana o così, o tendono magari un po' a ridicolizzare questo punto. Invece io lo trovo un punto di genialità altissimo. Però ripeto, questo è uno dei gruppi che sicuramente mi ha cambiato veramente le cose, il modo di concepire la musica. E quando loro. E torno, scusa, dopo questa grande digressione, No, torno al no, punto iniziale. dovutissimo. Loro, quando fecero uscire uno dei loro dischi, cioè il loro ultimo disco, ovvero. Oddio, adesso faccio la figura di merda che manco mi ricordo le cose veramente che contano. E Va no, vado ma i pure a cercare. metallari tanto hanno un hard disk saturo di informazioni su album e CD, quindi Esatto. veniteci incontro pure voi, brevi ascoltatori. Che... Green Card, allora, guarda, sono qui in maniera molto colpevole a cercarmelo su Wikipedia il nome dell'album. Vaffanculo. Leaves of Yesteryear, eccolo, del 2020, tra l'altro. Ah, recentissimo. Però. Quando uscì quest'album, quando fecero uscire la proprio la traccia iniziale, Leaves of Yesteryear, io quasi che mi sono messo a piangere. Sinceramente ero commosso, perché dopo aver ascoltato tutta la discografia, dopo averli veramente assimilati, non hanno fatto tantissimi album, ma ogni album è una mattonata veramente di emozioni forti. Quando fecero uscire questo specifico pezzo, lungo per carità, però bello, veramente intenso, pieno di cose, il video poi bellissimo, che è tutto un video molto artistico, eccetera, io sono quasi scoppiato a piangere, però ero felice come una Pasqua, veramente. Non contate su di me per il metal, dice Vincent, ma non ci interessa, mio caro Vincent, il metal è per tutti ed è una scoperta continua, e anche per questo stiamo facendo questa serata, proprio per invogliarvi, proprio per, se vogliamo, mettervi un po' di acquolina in bocca, sia per il disco di Nicolas, sia in generale per il genere, perché io credo, e accompagnami in questo pensiero, io credo che nella musica non ci sia vera competizione, nel senso, ci sono le battaglie, ci sono i dissing, ci sono gli screzzi, ma la vera competizione musicale non esiste, perché quando un genere tira, tira tutti. Certo. Mediocri o geni che siano di quel genere. Ma guarda, per me questo concetto è validissimo. L'unico punto di scontro effettivo dove si trova è quando viene meno tutto quel concetto che prima dicevamo, la volontà espressiva, l'artisticità effettiva di una canzone, album, singolo, quello che sia, la volontà di far prosperare e perpetrare un genere, e laddove ci si ingolfa, diciamo, in queste scaramucce di quanti live una band fa rispetto all'altra, quanti album quelli hanno composto in quanti tempi. Parliamone schiettamente, sono tutte cazzate. L'arte ha il suo modo, ha il suo tempo, sì. E a prescindere da qualsiasi natura essa sia, non per forza nel contesto musicale, potrebbe essere polivalente, ma lo do anche come consiglio a tutti gli ascoltatori, sì. Basandomi anche su quello che è stata l'ultima esperienza con Primordial Foods, molto poco bloccata e molto leggera nella sua stilatura, divertitevi, cioè, certo, godetevi il percorso, non la meta. Non c'è una meta effettiva, non c'è una volontà di dover arrivare a nessuna parte, perché non sapete che cammino state percorrendo, non sapete dove vi porterà, e non serve fasciarsi la testa con grandi sogni e progetti. L'era delle rockstar, per come la vedo io, è tendente al morto. Oggi internet, sì, ci fa aprire su tutto il mondo, ma non è facile, e la rockstar vera non è quello che sta ogni fine settimana su un palco diverso. Quello lo fa anche la cover band, che suona brani di altri artisti e lui non fa altro che riprodurli, magari, certo, in maniera eccellente, però lui fa il suo e basta. L'artista è quello che, quando lo senti, senti vibrare la sua anima, quando, che sia da un palco, che sia da una registrazione studio, senti che c'è parte di lui. E forse, correggimi se sbaglio, Leo, l'interesse che ci ha portato oggi anche qui a parlare un po' di Primordial Woods forse è nato anche dal fatto che tu, conoscendo la persona che sono e anche i miei mutamenti nel corso di tutti gli anni in cui ci siamo conosciuti, forse si avvertono un po' in questo album, o almeno io lo spero. Io, risentendolo, ho detto sì, in tutto quello che è quella matassa di canzoni lunghissime, ci ho risentito anni di Hagen, anni a fare il session per altre band black metal, anni di ascolti intensi di generi diversi, e che in quella diversità creano nuove forme. E anche qui ci riallacciamo alla domanda di prima: ti piacciono influenze diverse? Perché creano queste, creano di base la vita, La vita è fatta di influenze, dal più banale dei pensieri alla più aulica forma d'arte. E qui mi fermo, che se no mi No, vado in un soliloquio. è molto profondo come concetto perché sì, io sono assolutamente d'accordo perché, come hai detto, io ti conosco da parecchio, quindi ho, se vogliamo, un punto di vista privilegiato per alcuni aspetti conoscitivi. Quindi, sapendo chi sei, sapendo in parte cosa tu possa aver provato nella creazione di questo disco, che rapporto hai con certi aspetti, magari, ripeto, della cultura che abbiamo trattato all'inizio, sapendo quanto ami questo particolare autore a cui hai, alla quale hai effettivamente dedicato questo disco. Quindi, sapendo un po' di questo, io posso aver intuito parte del tuo messaggio, chiaramente. Però è bello il poter camminare, se vogliamo, in questa cosa qui. Io personalmente mi ci sento spesso in questo concetto del non lo so quello che cosa mi vuoi dire. Non penso di averlo capito, se non nella mia personale e banale concezione personale. Io non ho la sfera di cristallo, non ho la pretesa di capire tutto quanto. Quindi ogni sfumatura che io posso aver colto, ogni conferma che tu mi potrai dare, artista, ogni smentita che mi potrai dare, è un arricchimento. Per dirti, c'è una cosa, ne abbiamo parlato prima a cena, c'è un pezzo effettivamente del disco, in cui io mi sono trovato un attimo a fare perché? Cioè. E stiamo parlando della traccia, proprio della traccia che stiamo ascoltando in questo momento, in realtà, ovvero Summarerum, e mi scuso ovviamente con chi ci sta ascoltando adesso in diretta, so che non potete sentire la canzone. In realtà un po' ci fa gioco perché di sicuro Twitch non si arrabbierà con noi, dato che non stiamo passando cose, non ho idea di quali siano le Gli condizioni. standard, Esatto, no, più che diciamo. altro non ho idea se passare The Rerum Natura possa essere un problema a livello di copyright, eccetera. Adesso con la SIAE. Io non sono registrato SIAE, sono artista polivalente con Soundriff, ma non sembra importare perché comunque mi hanno rimosso la musica dai social, A quindi. posto, quindi perfetto. Allora abbiamo evitato sicuramente al runtime un problema, però nella versione podcast e video di questa puntata di Morfeo, ovviamente ci sarà di sottofondo la musica, quindi potrete ascoltarla assieme a noi. Comunque c'è appunto alla fine della traccia Summarerum che stiamo ascoltando in questo momento io e te, Nicolas, c'è una citazione ad un film che io amo, veramente amo alla follia, ovvero Dragonheart. E io mi sono chiesto, mentre dicendo a me stesso, cazzo che genio, Nicolas, cazzo che genio, proprio mi sono detto, ma perché? Questo è un duplice, forse anche più, polivalente richiamo a quello che è, da una parte, il contesto del Derrere Natura, che come dicevo, negli ultimi due libri tratta di cosmologia. E nonostante il discorso si vada evolvendo su quello che è l'ambito di storia dell'umanità, società, mera antropologia, c'è anche un ampio richiamo a tutto ciò che Lucrezio non è riuscito a spiegare scientificamente, quindi la natura degli astri, il perché loro siano lì, Certo, sono cose quelle cose troppo. ovviamente al di fuori della sua portata, come lo Esatto. sono per certi versi anche per noi. Sì, nonostante comunque consideriamo che Lucrezio già parlava di atomi, cioè è incredibile, lui definisce la materia come composta di atomi, riesce ad arrivare a questa sua considerazione. Dopo, certo, c'è sempre un elemento, direi magico, ma non è la parola giusta, con cui lui spiega tante cose. Ad esempio, il clinamen, omonima della seconda traccia, che sarebbe il movimento casuale degli atomi che crea la casualità di tutti gli eventi. Atomi che si muovono casualmente creano cose, Una creano. vibrazione, se vogliamo, Sì, quasi un esatto. richiamo ante litteram della teoria delle stringhe, così mi Sì, permetto. esatto, è assurdo, leggere una roba del genere vecchia di 2000 anni e passa in realtà. Io l'ho trovato sbalorditivo. E appunto vi è anche questo richiamo cosmologico, ma anche molto etico, direi. Perché la volontà, del Derano Natura di Lucrezio è far sì che le persone si svegliassero da quello che era il torpore nato dalla paura dell'aldilà, della natura divina che imperversava sul fare di ogni singolo cittadino romano e di tutto il mondo. Se ti comporti male, il Dio ti fulminerà, ti porterà la carestia nella tua terra, ruberà il tuo primogenito. È una cosa che dall'antico panteismo fino alle più recenti religioni monoteiste è sempre stata presente, la paura del divino. Lucrezio cerca di alleggerire questa formula sul modello epicureo e dice: gli dèi non ti dirà mai che non esistono, perché probabilmente lui stesso non era ateo. Lui però dice: la divinità, nell'alto della sua potenza e della sua onnipotenza, non si cura del suo fare mortale, bensì si crogiola nel suo poter scandire gli eoni, ovvero de te non gliene frega proprio un cazzo, detto in francese. Però è così. Sì. E quindi a che rimane all'umano? Certo. Che rimane se la divinità non si cura del mio fato, del mio destino, delle mie volontà? Sì. Rimane la possibilità di vedere la natura, capirla, osservarla come meglio puoi. Sì. E laddove non puoi, continua a interrogarti, che è ciò che ha permesso all'umanità di progredire. Certo. Perché guardando le stelle abbiamo raggiunto la luna, abbiamo raggiunto e raggiungeremo sempre nuovi traguardi. E qui il richiamo a Dragonard è stato chiaro, scontato, diciamo. Alle stelle, Bowen, alle stelle. Lo volevo mettere in italiano inizialmente perché il doppiaggio mi piace da morire. Sì. Però in inglese pure, con la voce del grandissimo Sean Connery, che poi in italiano è stata fatta da Gigi Proietti. Esatto, tutte e due purtroppo passati a miglior vita, esatto. Ma tutte e due grandi interpreti. Avrebbe reso giustizia al 100%, perché proprio quella scena è ricca di pathos nel film. Da morire. Da piccolo le lacrime si sprecavano. C'ho qualche secchio di lacrime ancora. Ancora pronto per essere ributtato fuori. No, hai citato il doppiaggio, perché so che tu comunque hai toccato questo tema. Sì, sì, sì. Ora, usciamo un attimo dall'ambito della musica, parliamo del Nicolas al di fuori di questa della musica, chiaramente. Tu hai effettivamente fatto un corso di doppiaggio. Sì. Ti chiederei a questo punto di leggerci questo passaggio in italiano che c'è nel tuo disco, effettivamente, che tu leggi nel disco, tra l'altro. Certo. E ti chiederei questo inedito per noi. Non eri pronto, lo so. No, è completamente no. Inventato in questo momento. Non era previsto, sappilo. Però ce lo faremo andare bene. E ce lo faremo andare bene. Quindi, signori, direttamente dalla traccia numero 3. Numero 3. Animus et Anima. Ce la presenti, per favore. Per bene, dai, presentacelo. Allora, la canzone è molto particolare perché questa non ha niente di metal. È un pezzo puramente atmosferico di 7 minuti, pieno di suoni ambientali di cui tanti l'ho dovuti creare dallo studio, tipo l'acciarino, il fuoco, perché non li avevo, e li ho creati come un pazzo davanti al microfono a condensatore costato decine di euro. Però la natura, proprio come nell'album, divide l'animo umano in due parti, così come la traccia divide l'ascolto dell'album. C'è l'animus, che è la parte che risiede nel profondo di noi, che è quella che funge da custodia per tutte le nostre emozioni e per tutto quello che è la nostra coscienza. E poi c'è l'animus, ciò che la ricopre, ciò che poi si toccherà nella canzone successiva, i simulacra, ciò su cui si depositano questi simulacra, che sono come dei veli che immagina Lucrezio e che praticamente creano l'espressione delle emozioni, perché questi veli, tangendosi tra le varie persone, vibrano e la loro vibrazione ha una risonanza diversa di parte in parte. Se vogliamo, è proprio letteralmente come un velo che disegna i contorni di qualcosa, esatto, a cui si appoggia, quindi esatto. È quello che appunto simulacra, che dà una forma, se vogliamo, all'oggetto. Non è molto diverso da ciò che le culture orientali, anche contemporanee a Lucrezio, disegnavano come il chakra, il chi. Ci sono vari modi di definirle. Lucrezio ne ha trovato una sua e gli ha appioppato, diciamo, un metodo scientifico sul perché ci sono e perché servono. Quindi, signori, adesso, dopo questa bellissima spiegazione di cos'è l'anima e l'animus, se non ricordo, se non ho detto male. Animus et Anima, sì. E Anima, sentiamo, diciamo, direttamente, in diretta, proprio dalla terza traccia di De Rerum Natura, Nicolas Guminelli che ci legge un passo, appunto, del De Rerum Natura. Appena la tua ragione ha cominciato a proclamare, in virtù del tuo genio divino, quale sia la natura di tutte le cose, ecco svanire i terrori del cuore, dilegarsi le barriere del mondo, ed ecco che io vedo ogni cosa prodursi nello spazio infinito. Appare degli dei la potenza, appaiono le lor quiete dimore, che non scuotono i venti, né cospargono le nubi di nembi, né la neve indurita, bianca di gelo, offende cadendo, ma dove, su d'esse, sempre si incurva un limpido cielo, e sorride d'una luce dovunque e ampiamente diffusa. Mamma mia, brividi. Certo che me lo fai fare con mal de gola, raffreddore, altro che doppiatore, qui me volano sono... i fischi. Cioè. Però mi hanno detto, ricorda vagamente la voce di Jon Snow, mi dice. Addirittura. Ci dice Simone. Allora, Simone pure è uno che bazzica particolarmente ambienti, audio e video, e quindi diciamo che poi lui da... diciamo che vive un po', cioè vive nei pressi di Roma, quindi ha avuto anche un terreno privilegiato, ecco, per queste cose. Con questa dizione anche Dossia Nunnaki potrebbe risultare sopportabile. No, decisamente. Allora, tu non lo sai, non so se che mi segui nella mia rubrica del mercoledì, questa merda che voglio riportare, questa merda deve scoppiare su, okay. Stanne lontano come la peste, assolutamente. Beh, non che la mia dizione attualmente fosse stata granché, perché non mi sono impegnato per nulla, un po' tra il raffreddore, un po' tra la convivialità con cui abbiamo parlato, un po' in dialetto, un po' no, un po' sì, però è genuina, hai rovinato, esatto. Che dici, hai rovinato la serata, dice Simone a Vincent. Sì, no, non andava Dossia Nunnaki, ragazzi, diventerà il meme del male di questa. Ormai mi state incuriosendo. Delle, cioè, mie trasmissioni. Ah, recuperati. È diventato un quartetto. Mamma mia, lasciamo perdere. Guarda, io ti direi: tuo amico, ti direbbe non lo ascoltare. Il me, pezzo di merda, ti direbbe: vuoi farti due risate? Vuoi vedermi sclerare? Ascoltalo. Oh. Prenditi le tue, sai, lo sai che vince la seconda. Beh, probabilmente, cioè, guarda, per il tuo bene, spero di no. Comunque, vabbè, mo non voglio concludere la serata parlando di stronzate, di brutte cose, perché comunque abbiamo toccato temi alti, temi interessanti, temi veramente eccezionali. Io resterei veramente qui a parlare con te di queste cose per ore, poi magari possiamo anche stapparci una bottiglia di vino e finire anche la discussione per stasera, ma in separata sede, fuori dai contesti di Runtime. Però vorrei concludere, diciamo, questa intervista intensa, però pregna di cose, che ovviamente sarò ben felice di, insomma, di rieditare per farvi sentire anche la musica di sottofondo, perché ci tengo che vi passi il messaggio che il metal, soprattutto il metal estremo, non è necessariamente qualcosa che vi scaccia. Anzi, se ascoltato con in un certo qual modo, è uno dei pozzi più profondi e interessanti in cui ci si può gettare. Però l'ultima domanda a questo punto, e veramente qui sbizzarrisciti con la risposta, non ti trattenere assolutamente. Vediamo, stupisci. I tuoi progetti futuri. Classica domanda per fine intervista, però... ci tengo che tu mi faccia effettivamente una panoramica. Se hai un sogno, perché mi hai detto, e mi permetto di fare questo inedito, che De Rerum Natura non sarà il primo e l'unico disco di questo tuo progetto solista, quindi mi chiedo il futuro di De Rerum Natura in sé per sé, ma anche e soprattutto il futuro di Nicolas e di tutto ciò che ruota attorno a lui. Allora, taglio come meglio posso dicendo che, partendo da Primordial Woods, di cui abbiamo parlato ampiamente oggi, no, sicuramente The Rerum Natura non sarà un lavoro singolo, anzi, concettualmente i concept di secondo e terzo album sono stati già scritti. A breve entrerò nella fase compositiva del secondo album. Sto solo aspettando la release di un nuovo progetto, perché per non farseli bastare mai, c'è un nuovo progetto che ho scritto ormai più di 3 anni fa, ma che ha avuto ritardi drastici. Una volta pubblicato quello, di cui spero se ne avrà di nuovo modo di parlare anche insieme. Assolutamente, anzi Simone, nostro presidentissimo, c'è anche... ti ha anche invitato a farci sentire i tuoi altri progetti. Saluto e ringrazio volentieri. E sicuramente entreremo nella fase compositiva prima dell'estate, perché l'idea c'è, è calda e la voglio portare a termine. Intanto anche il terzo concept mi sono portato avanti, è stato scritto, e pure quello prenderà la sua forma a tempo debito. Nel frattempo, anche in questo stesso momento, ci sono enormi work in progress, perché come dicevo, con i Fallet, la band più recente con cui sono stato attivo, siamo in fase di registrazione di un full length, che speriamo di presentare anche quello quanto prima. Per Primordial Woods sto lavorando con 2 incredibili artisti di Macerata, che laddove mi sentissero saluto Maria e Rebecca, che stanno curando insieme a Silvia la grafica del booklet per il formato fisico di Rerum Natura, che mi è stato ampiamente richiesto e non vedo l'ora di poter distribuire. Magari lo voglio firmare. Beh, a te ce lo sai, ci mancherebbe. Al contempo, che altro? Con Jägen, altra novità, già che siamo in casa, diciamo così, o mi ci hai fatto sentire almeno. Stiamo registrando non solo un nuovo singolo dopo anni, ma addirittura un video. No vabbè. E il video sarà la cosa più trash, io non vedo, ma non vedo voluta, che vi potreste mai ritrovare. Non già vedo. Il brano di per sé è qualcosa di letale. Descrivendo prima l'esperienza avuta col ritorno dei Green Carnation con Leaves of Yesteryear, vi posso dire, io come tutti quelli che hanno commentato, quando avete rilasciato quel video di ritorno sulle scene voi Jägen, tutti i vostri fan sono impazziti, perché non ce n'è uno veramente che non vi si ricordi con un grande, grandissimo e sincero affetto. Tutti quelli che sono andati al concerto di Jägen si sono divertiti, hanno cantato a squarciagola, hanno ballato, si sono menati, hanno riso a crepapelle, perché veramente... Pensa per noi le emozioni, ma cioè, sì, a vederlo dopo tutti questi anni. Ma sì, ma perché poi è anche un video, se vogliamo, simpatico, perché ci sta, però è anche molto, molto carico di emozioni di cuore, perché... Sì, esatto. Allora, ve lo descrivo sto video, c'è il cantante Leo, che è proprio l'istrione cronico, così, che si mette lì un po'... Nostalgico, alla Forrest Gump, direi. A stappare, se non mi ricordo, una bottiglia. Adesso non ricordo qual era. No, allora, la scena era che lui aveva sulle mani il booklet dei Mortal Lens di Jägen, il nostro ultimo primo album degli Jägen. Esatto. E che lui sfogliava con tanto di musichetta super emotional, mamma da commedia mia americana. Che paraculo. Veramente. Quella scritta in 2 minuti, io al piano per metterla lì. E lui sfoglia questo libricino e fa: ma quanti bei ricordi, sì, quante sì, belle sì, cose, sì, sì, sì, sì. Vero, perché ne abbiamo passate di ogni. E sfoglia sto libro e dice: ma darei di tutto per tornare a quel tempo, darei di tutto. Musica che si interrompe, mano di Eogan De Bard che si presenta e gli dice: olè, e dai, e namo a sonà. Non so perché romanaccio, in realtà siamo di Macerata, però vabbè. E dice: dai, namassonà. Ma come namassonà? Come famo? No? E dai, e namo, tu te fai sti problemi, guarda chi arriva. E si presenta Tommy, il nostro batterista. E lui armato di ciauscolo, cioè, perché ci hanno portato di roba a cazzo di cane per fare quel video proprio. Poi si presenta Federico con una bottiglia di Varnelli. Poi mi presento io con la bottigliola di vino, sclerando perché nessuno ne ha portato i bicchieri. E il video si interrompe in maniera strana per presentare l'unico membro che non ha partecipato alla riunione degli Jägen, che è stato il nostro chitarrista Samuele, ora sostituito dal non più anonimo Jean-Marc, della provincia di Fermo, poi tra l'altro siamo molto vicini a casa sua, e che adesso è parte attiva degli Jägen, e abbiamo ricominciato questo percorso alla stragrande. E non vediamo l'ora di portarvi questo bellissimo video del brano che Lo dico ora, non lo dico più, si intitolerà Mazzamurello. No, belli, cioè come la creatura del folklore tipica marchigiano. Del folklore marchigiano, esatto. Il folletto per eccellenza marchigiano. E quindi ci dice Simone, Macerata Roma è un attimo, Macerata gemellata con Roma, sì. E c'ha ragione. E c'ha grande ragione, assolutamente. Che dire, Nick? Allora, innanzitutto un saluto a Jägen vecchi e nuovi, quindi tutti quelli che hanno fatto parte del progetto e quelli che faranno parte del progetto e quelli che ci sono attualmente. Un saluto naturalmente a tutti gli altri musicisti che ti hanno accompagnato nel tuo percorso, soprattutto una parola anche per quelli che ti hanno aiutato per la realizzazione proprio di The Rerum Natura. Sì. Vorrei un attimo sapere chi sono le voci e coloro che si sono effettivamente messi a però musicare, insomma, quello allora, che hai scritto. Musicare sicuramente è doverosa menzione a quello che per me è più di un di un musicista, è un vero e proprio fratello dopo anni che condividiamo non uno, non due, ma ben tre e forse in futuro anche altri progetti. Sì. Il caro Eogan De Bard, con cui appunto suoniamo insieme nei Jägen, nei Simon and the Corrigans, e che abbiamo futuri lavori in serbo per tutti voi, con cui veramente ho diviso di tutto, e un giorno nei nostri aperitivi casalinghi è venuto su, io ho detto dai guarda ti faccio sentire brano in anteprima, era proprio The Rerum Natura, la title track, dove c'è la peculiarità in cui canto pulito, che per me è un grande no. No, perché sono un pessimo cantante pulito, nonostante sto sulla scia, ma non mi presto. Nonostante con i Simon and the Corrigans mi tocca frequentemente. Ah, io ho detto dai Eogan, tu che invece sei un cantante bello spinto e spedito, dai, ma vaffanculo, ti accendo proprio la scheda audio, adesso ce la cantiamo insieme. E lui ha partecipato come voce ospite nel ritornello di The Rerum Natura. Lo straringrazio per questo, ma ho modo di ringraziarlo di continuo, perché di quelle 4 o 5 prove che faccio a settimana lui c'è quasi sempre, e quindi mi capita fin troppo spesso di vederlo. Condividiamo tantissime cose, tantissimi obiettivi, e lui stesso si sta lanciando anche col suo progetto solista Eogan De Bard, che sta andando alla grande. Gli auguro il meglio se è qui in ascolto. E che altro dire? Niente, diciamo, gli altri partecipi effettivi non ce ne sono stati, ma premetto che il prossimo Primordial Woods avrà una grande serie di guest che sto già sistemando di traccia in traccia. No, ecco, ci sta, ci sta. Certo, assestarsi prima da soli è corretto, prima di magari chiamare dei musicisti, senza sapere magari cosa si vuole effettivamente da loro. Quindi assolutamente, come primo lavoro ci sta che tu abbia veramente risicato all'osso le persone all'attivo, perché almeno ti aiutava ad avere un controllo maggiore sul tuo lavoro. Quindi assolutamente, soprattutto nei progetti iniziali è meglio non coinvolgere troppa gente se non si ha un'idea magari definita, diciamo, sì, o quantomeno che non si ha ancora la maturità di avere il controllo sul proprio progetto, perché magari qualcuno se può fare tra virgolette l'errore di invitare una persona particolarmente brava nel suo lavoro, che ne so, chiamo un musicista molto fico, così, e magari quello, magari non tutti, però qualcuno tende ad approfittarsi anche inconsciamente della tua inesperienza e tende magari a darti le sue idee, sì, a dirti sì, forse questa sarebbe meglio così, e tu con la paura di contraddire qualcuno che dici cazzo, ma questa ha più esperienza di me, mi metto pure a sindacare, mi sembra. E invece no, uno deve essere anche un po' un pezzo di merda alle volte e dire no, questo è il mio progetto e lo devo fare come sento io, se no non ha senso, se no facciamo una banda. Ti dirò, secondo me quando fai un lavoro del genere in cui tu chiami un guest che ti viene a cantare o a suonare in un progetto, secondo me tu devi essere già al 100% sicuro che lui apprezzerà il tuo lavoro, non perché gli piace, ma perché capisce come tu lo stai esprimendo, e su quella linea lui troverà la sua. E se c'è quella risonanza, se, come dice, di nuovo recitandolo il nostro amico Sid, fai l'amore con la musica, allora tutto andrà per la sua strada, non ci sarà minimamente bisogno di indirizzarla a nessuna parte. Benissimo, allora prendo proprio la palla al balzo dalla domanda di Vincent, che ci chiede condividi social. Assolutamente, dove possiamo sentire The Rerum Natura e tutte le altre cose che ti piacerebbe che noi, grazie a questa serata, conoscessimo di te? Allora, i miei profili personali neanche saprei se consigliarvi, perché nonostante black metal, cose truci, sono un gran cazzone, piene di stronzate proprio, senza e va benissimo, va benissimo, ok. Però sì, trovate sicuramente tutto quello che è la nostra musica, Aegen, Primordial Woods, Falet e Sun and the Corrigans, no, perché stiamo anche lì aspettando di registrare l'album, ma tutto il resto ci trovate su qualsiasi piattaforma, da Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, qualsiasi cosa. E io consiglio principalmente, cioè e spassionatamente personalmente, Bandcamp. Esatto, che è questa piattaforma di condivisione, soprattutto di musica emergente, che però fa un ottimo servizio proprio di compravendita del disco. Mette tutti i testi delle canzoni e fa anche da ottimo lettore musicale delle cose che si compra. Sì. Quindi io francamente Bandcamp lo consiglio, soprattutto perché credo che si possa comprare sempre da Bandcamp, se uno lo vuole, anche il merch direttamente delle band. Esatto. Quindi è proprio una piattaforma a tutto tondo per ascolto e scoperta delle band, quindi da quel punto di vista io lo consiglio. Però sì, chiaramente se avete Spotify che vi trovate comodi, c'è, e tutte le altre piattaforme. Quindi, fino a una settimana fa c'era pure su storie di Instagram e Facebook. Ahimè, nonostante, ripeto, questa situazione poco chiara, e noi che sia con Hagen che con Fallet che con Primordial Woods non c'entriamo niente con le registrazioni della CIA tramite Royalty Collective, c'è stato questo mega boom di Meta che ha detto basta italiani, avete rotto il cazzo, e ci hanno sbattuto fuori da ogni social. Speriamo che la situazione si vada chiarendo. Soundriff stessa è intervenuta anche per via legali, perché comunque si parla anche di artisti che ci lavorano con la musica, e vedersi sbattuti fuori dai social senza un motivo preciso è abbastanza grave, ragazzi, abbastanza grave. È stato un duro colpo per chi come noi ci lavora con questo ambito. Noi ovviamente ci auguriamo una risoluzione per il meglio, si spera quanto prima che tutto ciò avvenga, e laddove non avvenga ci vedete su Spotify o tutte le altre piattaforme. Esatto, cioè soprattutto per quanto riguarda l'underground, magari chi ha dietro delle etichette più grosse, diciamo, ha le spalle abbastanza larghe, forse non ha bisogno di tutta questa protezione, ma in un paese come il nostro, in cui la scena underground è sempre meno sovvenzionata e seguita, purtroppo anche dagli stessi ascoltatori, quindi la colpa è nostra, di chi, anche è nostra del pubblico che magari non è così attento alle questioni, dovremmo di sicuro fare molto più rumore. Vabbè, ma comunque, dice Simone, per fare chiarire la situazione con Meta è ora che la CIA la smetta di sfrantumare il cazzo sciacallando indiscriminatamente, scusate. Allora, faccio un applauso a Simone, perché sì, c'hai ragione, assolutamente, però non spezzo una lancia a favore CIA, sia chiaro. Però ti parlo come un amico, pur non conoscendoci. Io per anni ho fatto l'editore musicale per una compagnia americana che, ahimè, per chi svolge questo lavoro, ha anche una registrazione in SIAE. Ahimè, è un mondo veramente brutto, poco corretto, con una marea di soldi latenti e quasi un po' mafiosi. Che ti devo dire? Che purtroppo il sistema è malato e brutto. Però la sua logica ce l'ha. La questione di Meta, della verticalizzazione del deposito delle royalties, ahimè, è stata orribile da ambo le parti. Nel senso, sì, la CIA è bastona, ma perché vuole i suoi riconoscimenti in quanto gestore delle royalties di tutti gli artisti che sono lei correlata. Mentre Meta ha tagliato ogni ponte ancora prima di sentire la CIA, proprio perché non c'era stato questo accordo. Quindi anche Meta non ha avuto assolutamente un comportamento corretto. Ecco, basti vedere gente come noi, che neanche c'entrava niente, purtroppo, che ci sia andata di mezzo. Però sì, diciamo che è tutta una grande merda, assolutamente. Quindi do ragione a Simone, ma ci tenevo anche a precisare, purtroppo, questa situazione delicata, in cui noi che siamo interessati nei malus non lo siamo in tutto ciò che ci permette di beneficiarne, purtroppo. La logica della tutela dei diritti è sacrosanta. Il problema è che SIAE rappresenta una gestione delle stesse quasi più unica che rara. E te ne parla uno che ha avuto esperienze dirette proprio con l'agenzia. Ai. E non sono mai belle. Quindi ti capisco, Simone. Anche io da organizzatore d'eventi, tu non puoi capire, per dirtela anche qui in francese, che pinza sui coglioni che sono questi della SIAE, si impuntano su tutto pur di lucrare. E ahimè, ecco, sono classiche mentalità all'italiana. Non c'è troppo da fare, purtroppo. Sistema malato che si spera di sanare un giorno in una società funzionale. Perfetta, magari. Ma la vedo molto come un'utopia. Semmai esisterà una società perfetta. Comunque, signori, che dire? Per me è stata veramente una serata fantastica questa. L'intervista che abbiamo fatto è stata veramente molto ricca, pregna di contenuti. E che dire, Nicolas, grazie, veramente grazie per la tua partecipazione. È stato bello veramente poter parlare di tutto. Io me l'aspettavo proprio così questa puntata, magari meno problemi a livello di dettagli, sì, però questo lo costruiremo meglio magari, però ciccia, il discorso c'è, e questo è quello che volevo effettivamente portare, quindi sono molto contento di quello che abbiamo portato qui. Comunque, dai, è bella puntata, ci dice Simone. Ma che già la chiudete, dice Vince. Vince, siamo qua da quasi due ore, sappilo. Cioè, appena hai la registrazione, mandala che la rimetto in replica. Assolutamente, grazie, Simone. Preparerò chiaramente per il feed di Morfeo e per il mio canale YouTube Vargheon. Preparerò questa intervista, quindi potrete riascoltare Nicolas e avere tutti, insomma, l'esperienza totale di Primordial Woods anche qui assieme alle nostre voci. Quindi è quasi un director's cut questa, certo. Uscirà fuori. Comunque, come vola il tempo quando ti diverti, assolutamente. Io non la sento. Quindi grazie Simone, grazie a tutti, grazie a voi che siete qui all'ascolto. Grazie qui a tutti quelli che ci ascolteranno in podcast, perché ricaricheremo naturalmente sul feed, ripeto, di Morfeo, chi ci riguarderà su YouTube. Grazie a te, Nicolas. Grazie, auguri, a te, Leo. Auguri veramente giganteschi per tutta la tua carriera e per ciò che farai in futuro. E grazie noi di cuore. Ci sentiamo alla prossima. Vi ricordo che domani mattina tornerà Simone con il Grande Reset, e torneranno ovviamente Michela e Simone questo sabato o domenica. Adesso vi basterà seguire ovviamente il canale Telegram di Runtime Radio per saperlo, con i loro disordinati informati. Dice Simone: no, non ci sono, domani non c'è niente. Mi rimangio tutto perfettamente. Simone sciopera, ok. Comunque, di nuovo grazie mille e niente. Grazie a tutti voi. Saluto. Let's go! Let's go! Da Mighty Award sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfitta nei negozi online. Mighty Award, let's go!